Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Da questa domenica inizia la versione estiva di Essere e Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Una selezione, il meglio di, vogliamo chiamarla, di tutto quello che vi abbiamo raccontato in questi mesi su moda, design, pubblicità, marketing, nuove tendenze, stili di vita e di consumo. Mercati rionali, etichette queste sconosciute. Nel primo degli approfondimenti che vi riproponiamo scopriamo quanto siano trascurate le norme in materia di etichettatura sulle bancarelle di frutta, verdura e pesce soprattutto. E al ristorante, ahi noi, è facile incappare senza saperlo in vongole turche o polpo vietnamita. Dai viaggi alla tecnologia fino al cinema sono gli over 60, gli ultra sessantenni, la nuova categoria forte nei consumi. Nel focus sui trend parleremo di potere grigio. La borsa della spesa. Questo è bello, eh? Quella metti dentro la patata, la zucchina, la carota, la mela, metti acqua. Le bistecche! Polpo, prego, prego, prego, prego! E davvero, polpo! Parliamo che mi fatica! Fatica che darai, catica! Che gioia i mercati rionali, viaggio nei profumi, nei colori, nelle tradizioni di molte città, spesso luoghi di affari e acquisti doc per molti intenditori, altre volte però fonti di fregature. A metterci in guardia sull'argomento per quanto riguarda le bancarelle di frutta, verdura e pesce arriva un rapporto del Dipartimento Sicurezza Alimentare del Movimento Difesa del Cittadino, rapporto in cui emerge quanto vengano ignorate nei mercati le norme sull'etichettatura dei prodotti. I banchi in regola sono solo 2 su 10 nell'ortofrutta, 4 su 10 per il settore ittico. Tra le indicazioni obbligatorie il prezzo non manca, ma origine, categoria e provenienza troppo spesso sì. Il rapporto assegna la maglia nera a Calabria, Sicilia e Campania. Tra le regioni più virtuose spicca invece il Friuli Venezia Giulia. Silvia Biasotto del Movimento Difesa del Cittadino. Sono 8 anni che noi appunto rileviamo il rispetto dell'etichettatura nei mercati rionali essenzialmente di 2 prodotti che vengono venduti sfusi, l'ortofrutta e i prodotti ittici. Soltanto 2 venditori su 10 rispettano la normativa per quanto riguarda l'ortofrutta e 4 su 10, in pratica il 43%, per quanto riguarda i prodotti ittici. Perché ho sottolineato sono 8 anni che noi svolgiamo questa indagine? Perché sono 8 anni che è in vigore una vera e propria normativa anche riguardo l'origine per questi prodotti e purtroppo nel tempo nulla è migliorato. Basti pensare che nel 2005 oltre la metà dei venditori, diciamo, delle pescherie nei mercati rionali rispettava la normativa. Oggi siamo scesi invece al 43%. Proprio il tema dell'origine è poi un tema molto sentito sia da parte dei produttori, dei consumatori a livello legislativo, ma a che cosa vale fare le norme se poi insomma anche dopo così tanto tempo non vengono rispettate? Perché questa diminuzione nel rispetto delle norme? Secondo noi manca anche un po' di preparazione da parte dei venditori e chi soprattutto rispetta le norme ha invece capito quanto sia importante, faccio l'esempio dei prodotti ittici, indicare in termini proprio di qualità della propria offerta da dove proviene quel pesce, anche perché oggi se ne parla tantissimo, soprattutto se è pescato e allevato. Omettere queste informazioni potrebbe essere anche, diciamo, la spia di una possibile frode merceologica. Faccio un esempio concreto: la differenza di prezzo fra una spigola pescata e allevata può superare anche le 15 euro al chilo, quindi insomma un cittadino non preparato paga quella spigola credendo che sia pescata, in realtà si tratta di pesce allevato. Ancora di più, una frode molto diffusa è lo spaccio di specie: credo di acquistare un merluzzo, in realtà mi stanno offrendo un pangasio. Nessun problema in termini di sicurezza, ma la differenza di prezzo esiste, quindi ovviamente acquisto un prodotto qualitativamente diverso. Quindi la frode merceologica potrebbe essere una, diciamo, delle motivazioni che spinge a rendere anonimi i prodotti prodotti nei mercati rionali. Come si può difendere il cittadino? Qual è il consiglio che possiamo dare? Sicuramente premiare chi rispetta le norme, quindi chi indica tutte le informazioni, dal prezzo alla denominazione di vendita, all'origine, al metodo di produzione, a cui aggiungo anche la categoria per l'ortofrutta, ma soprattutto comunicare, perché il mercato rionale è anche una realtà molto radicata nel territorio, quindi cercare di fare capire ai venditori che è importante che loro diano queste informazioni ai consumatori. Noi tra l'altro ogni anno comunichiamo ai ministeri competenti, alle forze dell'ordine, la nostra indagine con, diciamo, tutti gli indirizzi dei banchi rilevati, e quindi insomma il nostro auspicio è che possano partire dei veri e propri controlli in queste aree. È un peccato, perché il mercato può essere anche un luogo di valorizzazione del prodotto a chilometro zero, del prodotto di tradizione. Sì, in realtà è necessario sottolineare un'informazione, ovvero che nel caso della filiera corta della vendita diretta, cioè il produttore che porta i prodotti del proprio campo, non è obbligato a indicare l'origine, ovviamente se la sua offerta prevede esclusivamente i prodotti del proprio campo. Quindi diciamo che la normativa è un po' diversa dei farmers market. Noi invece abbiamo visitato mercati rionali dove ci sono venditori che portano prodotti del loro campo, ma si riforniscono anche presso i grossisti, quindi possiamo trovare ad esempio in un banco di ortofrutta prodotti che vengono dalla Spagna, dall'Africa, come dall'Italia o dalla città, insomma, dove si trova il mercato rionale. Conoscere la provenienza del pesce significa soprattutto poter fare un acquisto consapevole anche in termini di ecosistema marino. I nostri mari stanno morendo perché sovrasfruttati. Comprare la specie più diffusa o di stagione significa fare una scelta sostenibile. Una scelta che Coldiretti chiede di poter fare anche al ristorante, dove l'etichetta d'origine non è obbligatoria e spesso viene venduto pesce taroccato. 3 piatti su 4 nascondono sorprese straniere, ci dice Tonino Giardini, responsabile Coldiretti Impresa Pesca. Abbiamo rilevato che oltre il 67% del consumo nazionale è prodotto di importazione, abbiamo anche rilevato che oltre il 50% del prodotto ittico consumato, questo consumo avviene fuori dalle mura domestiche. Questo significa nei ristoranti, significa nelle mense, però è tutto un prodotto che non ha dietro di sé la tracciabilità, perché le normative sulla tracciabilità si fermano al ristoratore e non vanno all'utente del ristorante o della mensa. Chi si siede sul tavolo di un ristorante non ha mai la certezza di quello che si trova nel tavolo. Vorremmo chiarezza, perché questo ne va a beneficio di chi produce, perché dà un maggior valore al proprio prodotto, ma anche di chi si siede al tavolo del ristorante, perché ha contezza e certezza di quello che poi si trova nel piatto. Noi chiediamo una norma che obblighi il ristoratore, su questo penso che i ristoratori, quelli più seri, che sono anche in tanti, saranno sicuramente con noi, una norma che obblighi ad indicare se il prodotto è di provenienza nazionale o comunitaria o è di paesi extracomunitari, poi ognuno sarà libero di scegliere quello che vuole, anche a prezzi diversi. Quali sono i falsi più diffusi? Citiamo qualche specie. Le truffe sono di diverso tipo, o di prodotti di specie tipo il pesce persico, il pangasio, che provengono dal Nord Africa, dal continente africano in generale, il persico, oppure il pangasio dall'Asia, che sono pesci di acqua dolce spacciati per pesci di mare, e a volte per pesce congelato che è simile al nostro nazionale, tipo le triglie, le sogliole, o altro che viene da varie parti del mondo, anche i gamberi che vengono scongelati, spacciati per freschi, per prodotto nazionale. Ovviamente i costi di produzione in Vietnam sono ben diversi dai costi di produzione nostri, e quindi noi dobbiamo difendere comunque la nostra produzione e anche la nostra qualità. E spesso succede che sul piatto, sullo spaghetto alle vongole, troviamo vongole che vengono dalla Turchia, che vanno a penalizzare la nostra produzione. Io dico questo: difendiamo la nostra produzione, perché vuol dire difendere il territorio, vuol dire difendere un sistema. Se non premiamo la qualità dei nostri produttori e non identifichiamo il nostro prodotto, dovremo soccombere, perché i costi di produzione, il prezzo dei prodotti di importazione è sicuramente più basso di molto del prezzo che spuntano i nostri prodotti. Certo è che ognuno potrà scegliere nella trasparenza, se scegliere, diciamo, il Made in Italy o comunque

cucine come la Skylab di Snydero, progettata per disabili e anziani con il piano di lavoro ribassato 80 cm, pensili sostituiti da colonne attrezzate, il forno con la porta a libro, i cestelli girevoli sul piano di lavoro a terra su ruote, eccetera. Quindi spazi diversamente concepiti, ma non solo, perché è nell'arredamento dove ci sono i margini di miglioramento più ampi, dalle poltrone ai letti ai divani che aiutano a rimettersi in piedi, eccetera. E poi le città stesse. New York, dopo aver allungato i tempi dei semafori per l'attraversamento delle categorie cosiddette lente, sta ridefinendo proprio in termini di urbanistica degli spazi a misura di anziano, con l'inserimento di bagni pubblici vicino alle fermate dei mezzi, aree verdi attrezzate per l'attività fisica, eccetera. Non finisce qui. In Spagna, Francia, Florida e Arizona nascono delle vere e proprie città pensate a misura di anziano. Citavi l'active aging, l'invecchiamento attivo celebrato proprio quest'anno, e il portale online riservato agli over 50, www.greypanthers.it, tra le molte iniziative ha inserito la diffusione del web tra i senior, che in Italia, lo ricordiamo, sono l'11% degli utenti web, dati Eurisco. I senior usano internet soprattutto per l'home banking informativo, cioè controllano il loro conto online, e pare lo facciano fino a 3 volte al giorno, e per fare acquisti e prenotazioni. Da qualche anno anche il cinema sta sfatando i cliché associati alla terza età, sesso compreso. Calendar Girls fu il primo del 2003, poi seguirono Non è mai troppo tardi, Tutto può succedere, fino al film tedesco che ha fatto scandalo, Nuvola 9. A fare notizia quest'anno, anche se con uno stile diverso, bisogna dirlo, è Simple Life della regista cinese Anne Hui, definito un vero e proprio inno alla vecchiaia. All'inizio del film ho visto il tuo nome ed era scritto grande, grande. Ma se tuo padre fosse ancora vivo, sarebbe orgoglioso di te. Sei sicura? Ma certo. A 20 anni andai a studiare negli Stati Uniti. A 30 sono tornato a Hong Kong. E da allora Atao è sempre stata con me. Vado in una casa per anziani, costerà tanto. Sta tranquilla, te la pago io. Ce li ho i soldi. Pago io. Stai pensando di sposarti? Ma no! Patrizia, non solo cinema, anche in letteratura i protagonisti âgés sono molto di moda. Sì, ironia e sana noncuranza sono gli atteggiamenti dei protagonisti, anziani benestanti e viveur, di un libro di recente uscita, Romanzo per signora di Pier Sandro Pallavicini, che vivono e raccontano storie appunto di droga, malattia, omosessualità, politica, nel caso di un altro romanzo, La banda degli invisibili di Fabio Bartolomei. E poi il libro svedese, Caso editoriale del 2011, sulle mirabolanti avventure di un centenario che fugge dall'ospizio il giorno del suo compleanno. Il titolo è Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve. Per inciso, in Italia sono 17.000 gli ultracentenari. Anche la televisione sforna programmi nati e studiati per un pubblico di over 50, e poi anche il mondo dei videogiochi comincia a interpretare questo mondo, anziani contro zombie, e anche un'app per i runner, per stimolare chi corre simulando l'inseguimento degli zombie. E poi Seth Cohen, mondo della moda, il fotografo che racconta nel suo blog Advanced le signore dai capelli d'argento, âgé, molto glamour. Al centro di un casus belli, le centinaia di anziani che il giovedì a Sciami occupano la caffetteria e alcuni reparti dell'IKEA di Pechino, luogo preferito per socializzare, sentirsi liberi ma anche un po' protetti. È comparso a certo punto un cartello con la scritta: la direzione informa che il vostro comportamento sta ostacolando le regolari operazioni del negozio, ma l'effetto dissuasivo per questo club di anziani del giovedì pare non ci sia stato. Ci sono anche nuove parole per definire queste fasi ultime della vita, middle sense o adult sense, per comunicare quanto questo stadio sia in realtà un momento di trasformazione al pari dell'adolescenza, quindi un momento nel quale le persone hanno tempo libero e un crescimento crescente interesse per nuove esperienze, ma naturalmente un differente potere d'acquisto, come abbiamo già detto. Al Pacific Research Institute California, Sonia Harrison, futurologa, autrice di 100 Plus, ultracentenari, dichiara che un'età media di 150 anni è raggiungibile in un futuro molto vicino. La prima persona che vivrà 150 anni, secondo lei, è già nata, e gli studi sulla longevità, condizione legata alla genetica, alla medicina, ma anche alla nutrizione e agli stili di vita, confermano questa nuova soglia raggiungibile. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo in Gran Bretagna su potere grigio, consumi e dintorni? Questo è il momento della nostra Urban Watcher. Alessia Zampano, ciao Alessia. Ciao, buon pomeriggio. Granny Cloud, le nonne della cloud, è la azzeccata definizione di un programma sociale educativo che vede protagoniste le nonnine inglesi, impegnate in un'attività che combina i nuovi media e la solidarietà, ossia un ruolo fino a poco tempo fa inimmaginabile. Il progetto nasce da una ricerca condotta in India da Sugata Mitra, professore di Educational Technology all'Università di Newcastle, ma probabilmente più conosciuto per essere stato l'ispiratore del film The Millionaire. Mitra ha chiesto ai ragazzini degli slum, i quartieri disagiati, in quale modo avrebbero preferito usare Skype. Sorprendentemente la risposta è stata per ascoltare le fiabe raccontate dalle nonne inglesi. Alla luce di questo risultato, Mitra ha subito raccolto le adesioni di circa 200 volontarie, tra nonne e maestre in pensione, che hanno dato la loro disponibilità a collegarsi via Skype una volta a settimana e raccontare storie ai ragazzi. In poco tempo il progetto si è evoluto, diventando un vero e proprio servizio didattico e formativo in cui le anziane inglesi fanno da mentori, aiutate da moderatori. Del resto, se i nonni 2.0 possono collegarsi con i loro nipotini lontani e raccontare loro le storie, perché non usare la stessa tecnologia per diffondere letteratura e educazione e utilizzare in modo virtuoso il tempo dei pensionati? Grazie Alessia, veramente una bella iniziativa che può fare in qualche modo scuola. Patrizia, siamo in conclusione. Essere age friendly diventerà dunque uno degli imperativi del futuro per brand, prodotti e servizi? Certamente. Un dato interessante che emerge dalle ricerche è questo: ai nuovi anziani non piacciono i prodotti per anziani, come i telefoni fissi o cellulari con grandi tasti o tasti immagine, insomma quei prodotti che comunicano socialmente lo stato di vecchiaia in cui si versa, quindi le difettosità fisiche di cui si è portatori, i deficit della vista, della memoria, eccetera. In ogni caso, questa poca dimestichezza, soprattutto con la tecnologia. Il futuro protagonismo degli ultra sessantenni nel mondo dei consumi è un dato certo. Gli over 60s possono diventare lo sbocco inaspettato e interessante per molte tipologie di prodotti e servizi. Finisce qui questa prima puntata dell'antologia estiva di Essere Avere. Vi accompagneremo fino al 9 settembre con il meglio di della stagione, poi via alle nuove puntate. A domenica prossima, un saluto da Maria Luisa Pezzali.